Avventurieri, cattive notizie. Un esercito di anguille sta sfrecciando verso di voi dalle fessure della grotta. Dovete proteggere la chiave e voi stessi dal loro attacco imminente. Per ora, pensate a voi stessi. Le anguille rilasciano scariche elettriche per colpirvi. Per difendervi, dovete scegliere un oggetto che contenga materiali isolanti, cioè in grado di bloccare o ostacolare il passaggio della corrente elettrica. Nell'inventario avete a disposizione uno scudo composto da ferro e rame, un mantello di gomma, una vela bagnata di acqua salata. Quale oggetto scegliete per isolarvi dalle scariche elettriche delle anguille?